ci son perché voglio te, voglio te, voglio te. Cerco di giorno il tuo riflesso, fermati te lo chiedo adesso. Non fermo immagine di te, voglio te, voglio te, voglio te. Voglio te, voglio se te. Prenderti il meglio di me, ogni attimo basta che c'è. Voglio te, splendida, voglio te. Immensa in un momento, dentro un fuoco che regala brividi. Voglio te come una macchina indelebile, unica, lucente, incredibile, come un'ombra che si insegue nel vento. Ora che sento che voglio te. Vicino scopro che non sei te, non sei te, non sei te. Ma perché ogni cosa che guardo rivela te, anche il gesto più inutile. Ma ormai che sei diventato un tormento, ogni giorno cresce sempre di più, di più. Voglio te tra gli forni e gli vecchi soffà, ad accendere la fantasia. Il futuro accende. Dammi il senso per vivere in sogno.